il mondo è molto strano. Io dico la mia, non parlo in vano. L'adolescenza è l'età più difficile. Cerchi di farti spazio dove sei più abile. Il talento a volte viene soppresso da gente bastarda che ti considera un fesso. Così da scoraggiarmi, io sono più forte di voi, non potete fermarmi. Voglio avere più spazio, datemi più spazio. Questo mondo non fa per me. Voglio il mio spazio. Voglio solo urlarti in faccia e dirti cose che non ho potuto dirti. È tutto quello che mi circonda, sono un essere libero, vagabondo come un'onda. Mi perdo nelle immensità marine, dal mio spazio vi lancio meteoriti sotto forma di rime. Rime, solo questo io vi do, io vivo con le mie rime, che ti piaccia oppure no, come faceva ai suoi tempi Tupac, quando io non ero nato, non conoscendo il rap. Voglio avere più spazio, datemi più spazio. Questo mondo non fa per me. Voglio il mio spazio. Voglio solo urlarti in faccia e dirti cose che non ho potuto dirti. Sono pronto a reagire. Parlane oppure no. Dimmi tutti i tuoi problemi. Se non riesci ad esprimerti, vieni. Così come ho fatto già. Dai tempo al tempo e resta sempre attento. Sfogati se vuoi. Cose che non ho potuto dirti.